qualcuno qua? CQ10? CQ canale 10? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Sì, ci sono io, Natalì, ciao Natalì. Avanti. Non ti sento più, Natalino. Come non mi senti più? Adesso sì, se parli già ti sento, ma se non parli no. Cioè questo qui è disturba, non parla mai, fa versi brutti. Ma quello è un malato mentale, non ci fare caso. È guasto, basta. Sì, che era guasto lo sapevo. Appunto, è un malato mentale, è da ricoverare. Anzi, è senza rimedio, anche se lo ricoveri non guarirà mai. Questo reparto agitato. Questo è andato al manicomio, è nato. Allora, reparto agitato, con la camicia di forza. E allora, è proprio così. Io lo so, sì, ogni tanto si fa una fischiatina, ma qui mi arriva bassissimo, a momenti non si sente nemmeno. Per cui non è un problema. Lo so, anche qua non è che abbia questo gran segnale, per quello. L'ho già risposto male una volta, cazzo, lui non ha imparato. Ancora, sai cos'è? Deve essere che non ha nemmeno uno specchio a casa sua. Perché se si guardasse allo specchio si renderebbe conto che è un malato mentale. Sì, infatti. E vabbè. Io ho fatto chiamata poco fa, ma non c'era nessuno. Adesso sei arrivato tu ed eccomi qua. Stavo chiamando poco fa lo stesso anch'io, non c'era nessuno. Vabbè, pazienza. PNR mi c'è Bacchisio, c'è sempre c'è Graziano, il solito Grazianito. Via, già gli ho sentito. Sentiti. Vabbè, dai. No, ma quando non c'è nessuno qua passo là. Io sul 23 se c'è qualcuno, oppure in PMR. E perché no? Sì, infatti. Faccio. Beh, d'altronde. Vediamo se Marco si è svegliato. Marco, svegliato ti sei. O sei andato a metterti a bagnomaria? A me mi sembra che è in coma profondo ancora. Per forza, non dorme la notte e poi dorme durante il giorno. E quello è il problema suo. Poi pranzo a quest'ora, tu. Infatti, poi pranzo a quest'ora e dunque ha la digestione è difficile, per cui non ha voglia di parlare al baracchino. Io ero tutta la mattina al vero. Fare un favore a una persona, potrebbe dare massimo, sarà un esempio che ha dato. Che aspetta, insomma, cosa hai fatto? Un passaggio gli hai dato. Vabbè, purtroppo le persone bisogna anche aiutarle quando è possibile, e perché no? Perché questo si deve operare. Lo voleva vedere il medico, vedere l'appuntamento. Ho capito, sì. Vabbè, meglio così, dai. Quando si può fare una cortesia si fa senza pensarci troppe volte. Così bisogna fare nella vita, bisogna aiutarsi l'uno con l'altro. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno sempre, prima o poi. L'altro giorno l'ho accompagnato, ma quella è stata cosa svelta. Ci ha detto cosa dovevamo preparare. Ok. Beh. Andava. Ma poi la strada adesso la stanno terminando, l'ho già terminata l'anno, perché avevo letto tempo fa che avrebbero rifatto, cioè avrebbero completato quei 4 o 5 chilometri che c'erano rimasti da fare la strada per Alghero. Sì, hanno cambiato tutto. beh sì, indubbiamente, se hanno completato la strada, sì, perché l'abbiamo lasciata a metà, e a 30 anni di strada così si deve completare. Ah ma è tutto pieno di rotondi. Io so, non do, ci sono, guarda, ad esempio sulla Budibuti già ne hanno fatto uno o due, sì, di questi rondò. Vabbè, se è per evitare i cinesi è meglio che ci siano, guarda. Sì, infatti. E non che invece ci sono tutti gli da uno ieri notte, si è parata la polizia e l'ambulanza, e uno poco fa. Ma che sono bisogno un bel discellerati, ci sono tanti autisti, anzi diciamo che la maggior parte degli autisti sono degli scellerati, perché non è possibile che si possa camminare in macchina, non si rendono conto, ragazzi, che cosa stanno guidando, è un mezzo molto pericoloso oggi la macchina, te ne escono da tutte le parti, ci manca solo che te ne scendano anche dal cielo in macchina, da destra, sinistra, da alta, da dietro, tutti i luoghi di Nibali, manca solo che scendano dal cielo, anche voi siete Nibali, è buio allo zero, vai a bere. Sto dicendo che mi hanno investito, ha messo i passaggi pedonali, meno male che sono stato pronto di riflessi e ho saltato la macchina, non mi avrebbe fatto molto ma molto male, quindi in corso di città nei passaggi pedonali. Sì, io lo so, sì, te lo sto dicendo, ci sono degli scellerati che io a quella gente le avrei ritirato la patente e sequestrato la macchina, tu non vi vuoi più in macchina, tu cammini con un cammello oppure un aereo di bidi, se lo vai a piedi non gli avrei dato più di patente a quella gente. Io me ne sono accorto che questo era distratto, cazzo, e allora ho saltato, ho messo le mani sul cofano e ho saltato la macchina, se no mi avvienti più da bene. I passaggi vedo una roba da qua, già è pericoloso perché è in curva, mettono i passaggi pedonali dopo la curva che non si vede. Anche lì già sono degli imbecilli che hanno fatto il passaggio pedonale proprio lì davanti alla chiesa praticamente, ma quando vai fanno lì davanti al mercato, così almeno uno lo vede bene, lo vede, e invece lì ti ritrovi subito un po' la curva perché ci sono quei pazzi macchine che arrivano veloci e non si rendono conto che lì c'è il passaggio pedonale, già lo so, sì, no, oh, alle volte anche la segnaletica fa schifo, non è possibile. Anche sulla parte sul passaggio pedonale abbia arricciato. Penso che l'abbia deciso di farlo, non penso che l'ha fatto, perché penso che l'ha fatto l'allenatore a farlo. Dunque, la colpa non sarebbe nemmeno sua. Qualche direttore della circolazione stradale che gli ha dato l'ordine, fa il passaggio pedonale qua. Magari lo si rende conto e poi tutti quanti attraversano la banda del mercato, ma se io arrivo dal ponte il passaggio pedonale deve essere di fronte al mercato, non subito dopo la curva di Corso Trinità. E infatti dopo la curva mi metti il passaggio pedonale, ma la roba la chiudi. Per forza l'incidente succede lì, perché uno arriva sparato, perché già lo sappiamo, la gente non cammina mai piano, e dunque ho un telefonino, ho una sigaretta in bocca, ho una maledizione di venghi a te che bastone in guida in questa maniera, poi investono il pedone, investono. Sì, infatti, non parli. Per carità, non è possibile, vabbè, arrivo da voi qua. Cosa vuoi fare? No, non c'è rimedio, guarda. Sempre rimane in peggio, sempre più peggio. Si sta andando avanti. Marco, ebbene, svegliato ti sei. Tu pensa che l'automobilista si deve fermare anche se attraversa un cane nel passaggio pedonale? Anzi, si deve fermare. Per obbligo, perché uno che è proprietario del cane, padrone del cane, ti denuncia e tu rubavi e ammazzi lo cane, lo sai? Eia, ma c'è gente che passa ugualmente veloce dove c'è lo stop, non rispettano lo stop, ma dimmi tu. Infatti, questo lo so per certo, perché è già successo un fatto del genere. Qui a Ripunti hanno investito un cane, era bollito da pigliare, buono la battevanna. Lui a coltare la macchina, secondo me, perché gli avevano fatto una piccola marcatura della macchina, no? E dunque si sono bestecciati col proprietario del cane, se so. Beh, alla fine gli dico cosa ha fatto, ah così, e beh, avanti di notteggio, e l'ha denunciato. Gli ha fatto la causa, mio nipote gli ha fatto la causa, e gli hanno fatto pagare il cane, a Rosario hanno fatto pagare il Lugani. Ehi, e c'è un modificio di razza di Giuccia? Gli Lugani, siccome mio nipote, uno dei miei nipoti che è avvocato anche, no? Per cui, diciamo sì, se ne porta bene, ma che se vende quel problema, sento di posso vedere che tu non gani, non paghi. E così è stato. Ha fatto causa e gli hanno dato tutto. L'ha pagato il gani, l'altro che se l'ha pagato. E a uno, lo Mazzetti, nei passaggi pedonali, è a uno, ma cammina di piano, lì. Beh, allora mi hanno invitato la patente, l'hanno fatto qua la revisione della patente. Così è, il pedone sul passaggio pedonale è sacrosanto, è intoccabile, ma fuori, capita, no, non è possibile, no. Solo che alle volte tu stai camminando, c'è quello che è dietro, quando tu alle volte sei costretto anche a fare la frenata, diciamo così bloccare istantaneamente, perché c'è anche quel pedone che è disattento, dal marciapiede te ne scende all'improvviso, tu cosa vai? Blocchi, e magari vedi la macchina da lì, boom, e ti cogli una mucola da dietro, capito? E bisogna stare attenti anche a quello, ecco perché si deve camminare piano sempre, sempre, sempre. In città è pericoloso, no? Già c'è la semplifica che trova il tempo che trova. E poi c'è gente che è molto, ma molto imprudente. Infatti, gli auguri che è imprudente la gente, oh, yeah. Purtroppo così, e cosa vuoi fare? Ma sia Vesani, speriamo che prima o poi impari e Bassoni a non fare imbecilli in macchina. Senta, a me uno due mi hanno tagliato la strada addirittura, e se non fa gente per bloccare la macchina, oi. Ah, poi dico che Piero, sai che chi vede un passaggio regolare, per ogni esperienza, rallenta, vedi che non si sa mai, te c'è una persona da dietro una macchina, perché oggi tante volte, molto spesso e volentieri troviamo anche le macchine che sono proprio al ridosso del passaggio pedonale, e non si sa mai, ti esce una bassona improvvisamente, vivi in passaggio pedonale, uno si chiude e scende improvvisamente, lo metti sotto e hai torto, e dunque bisogna fare attenzione, bisogna avere non due occhi, ma bisognerebbe avere 8 di occhi, anche all'altro, di lato, a destra, due a destra, due a sinistra, due a dietro, due a davanti, per poter circolare oggi, per carità. Beh, sicuramente sì. E se ti briglia, come te minimo ti droga anche, ti droga, come minimo. Quando ti solleva in alto e ti sbatte contro il parabrezza, è come un gabbo al parabrezza, soprattutto al montante del parabrezza. E allora è chi mi micidiare il discorso. Incredibile. Chi da ieri aveva una bicchiera busciacca, era dove la uno prende la macco, boom, e pari, non se va vedere più. Era la macca finita lì su, di Valomacco. E da voi camminando i tratti, telefonenti, scrivendo i messaggi al telefono, ma quando mai, cazzo, li avevi visti così, cazzo, mi avevo pigliato tutto la partenza, ma buffonetto. Cazzo, non solo telefono, scrivendo i messaggi. Sì, sì, no, non basta bisognare la patente, no. Io non ho bisogno della macchina, chi ti scenderà di? Sono capace che anche se gli prendono la patente, che guidano lo stesso, e invece si guida la macchina, figlia di Nila la macchina, non ne dà più, e ci si ricupa di un'altra, e allora se guida, così almeno imparano gli italiani. Sì, adesso già stanno spingendo, spingendo sempre. Adesso mi seguivi senza patente, non ti arrestano più, no? 2.000 euro di multa ti mettono perché l'hanno derubricata quel reato, guida senza patente, 5.000 euro di multa di bo. Voglio vedere se ricuperi. Sì, ma la pure fu la causa penale, fu. E allora non è solamente la multa, no. Fu la causa penale perché stai guidando un mezzo che non sia autorizzato, perché se non hai la patente non sia autorizzato. È lo stesso discorso, vale, sei scaduta la patente, è come che tu non ce l'abbia la patente, per cui ricorre sempre della penalità, oltre alla multa, gli allugrivia, è giusto che sia così, ma siccome ci sono questi drogati, i timbriagoni, non se ne rendono conto e vanno lo stesso, poi tra l'altro con macchine senza assicurazione, senza accidenti, no, va bene, tu te immagini invece una persona senza assicurazione, sì, due degraziati, un bocco di fame, cosa fa? Se rilassi un anno con la condizionale, beh di no, oppure a farla, a scontarlo l'anno o due anni, e poi riesce, però intanto è morto e non ritorna più in vita, il discorso è questo, sicché ci vuole un polso più forte, ci vuole, no? Lui la va. No, comunque il penale, non ci va sul penale quando guidi senza patente o giù. È passato il reato amministrativo, capito? Di buono nella multa e boom. Cos'è? Una nuova legge questa, eh? E Milani Cavaddu, l'articolo 90, guida senza patente. E Lucia Roma una valentina di se beva guida la patente, che se la fuggi. Se mi pone 5.000 euro di multa, ebbene la pago, però guido, l'ho preso. Se uno è milionario, cosa gliene frega di pagare 5.000 euro di multa? Non gliene frega niente. Lo so, però se causi incidenti ti arrestano, lì. Quello sì, se causi incidenti, ma è giusto che sia anche così, perché, ripeto, ci sono troppa libertà, c'è, in macchina la gente non la vuole comprendere. Non vuole capire che la macchina è un pericolo pubblico sempre così costante, per cui io sarei comandato io un po' di tempo, non avevo visto di cose, mi è bastata la gara, senza niente. Che tanti reati come guida senza patente li abbiano tolti dal penale, non sarebbe che buono in vita avuta, sono passati reati amministrativi. Appunto, tu pensa capita che mia socia ad esempio l'avevano ammazzata in macchina, devo immaginare, e dopo un po' di tempo è uscita l'assicurazione obbligatoria. E dite, una donna che aveva appena 44 anni aveva, quando l'hanno investita. Per cui ti puoi immaginare, purtroppo così. E allora, 44 anni aveva appena, con figli piccoli, minorini, eccetera, eccetera. Per dirti, no, ecco come era la storia. E non c'era nemmeno l'assicurazione obbligatoria. Ebbe cosa l'hanno fatto? L'hanno sospeso la patente per 8 mesi a quello e boh basta. Non l'hanno nemmeno arrestato. L'hanno sospeso per 8 mesi la patente. Boh, finì di chi? Io va a far lavare l'assicurazione. Purtroppo così. E cosa vuoi fare? Boh, comunque. Oi. E tanto non è 31. Marco, ci sei? No, non ha gana, no, non entra nessuno, non lo sai. Mi vado battendo la televisione, tanto è lì dalla regione, per fare ping pong con noi due, cosa so che fare, ho capito il tempo. E infatti, si porterà giù io, ma te, pare che si sia addormentato sul canale, non entra nessuno, boh. E infatti, vabbè, pazienza. Pascescia, e cosa vuoi fare? È stato un pascescia, si dice, oh sì, dove è stato? E già. Hai di quattro mari hanno preso la macchina dell'Ugaglia, lei ancora in Ugaglia e va via. Ma comunque, con Luisa no, non mi stare sempre tanto. No, stavo aggiustando, perché avevo rotto lo specchietto della macchina di mia figlia e l'ho sostituito. E dunque, poi quando ero lì, tutte le altre cose, per fare un po' di manutenzione, controllo olio, refrigerante, acqua per i vetri, tutti questi cose. Io sistematicamente ogni tanto glielo controllo, perché lì naturalmente non è che... perché lei capisce niente, è delle cose facili, no? E lo sai come ti funziona, no? Ci danno anche a rifemmini guai. Beh, loro non ne controllano, no? Queste cose. Mentre gliela controllano. Non risulta la bacca s'anticipa nella macchina. Infatti, è perfetta, è un orologio, è una macchina che ha 160.000 km, va già a 13 anni, però è una perfezione proprio di lusso, ammortizzatori, gomme, tutto a posto, è tranquillo. Per cui adesso fra un po' la porto lì al meccanico e faccio controllare la, come si chiama, la cosa di distribuzione, non la catena, no, la cinghia di distribuzione, perché quella l'avevamo fatta tanto tempo fa, quando aveva, mi sembra, 80-90.000 km, e adesso siamo 8-8-16, siamo gli altri 8-60, e che siamo di nuovo al limite per la cinghia di distribuzione. Capito? Qui siamo controllati sistematicamente. Ma il motore è un orologio, è perfetto. Sì, gli apporta la cinghia a 160. Ogni 80.000 la lampadina interna e fa la puminova. Infatti l'ho anche detto a mia figlia, a me uno di questi giorni la portiamo da Franco, facciamo sostituire la cinghia di distribuzione, perché quella bisogna controllare, ma la macchina va bene, io non so grande la macchina, però quella vuole controllata, hai capito? Quella lì vuole controllata obbligatoriamente, se no se si fa sciarista si rampa la macchina. Ehi, a cinghia di valvole, per quella cinghia piega le valvole e butta il motore, non sta rifatto, gli abiti con i popoli. No, ma non le farei mai, al limite ne compare molasla, anzi, gliel'ho anche proposto, quando è che la cambiamo questa macchina? E ancora no, ancora ne cammina, e allora che cammina? Vabbè, ripeto, è culata, dal meccanico è culata la macchina, perciò un giorno gli ho detto alla meccanico, ma con tutti questi chilometri che ha questa macchina, quando si viaggia tu pensi che possa... uguale, guarda, questa è come nuova, perché è stata sempre fatta la messa a punto, messa a posto tutto, eccetera eccetera, perciò non c'entra niente il fatto che abbia 100.000 km o che ne abbia 300.000 di km, non c'entra proprio niente. Quando il motore dice è a posto, è curato, anda bene, guarda che oggi dice si rompe più l'elettronica, si rompe più che i motori, perché i motori oggi camminano all'infinito. Che buona cosa, cambi la cinghia e le dai a pugni, va a 60.000 km, tanto se non vi la butti tutta non mi butta mai. No, figurati, e da non ne sa, no, non sa che ne sappia che dai te corsi. No, ci penso io, ci penso. Dammi la macchina, vai, prendi la mia, per oggi prendi la mia, che devo andare al meccanico. Prendo sempre l'appuntamento prima, così non perdo molto tempo, una mattinata, e quando mi dici portamela e me la vado in una mattina, me la fa la macchina. Sì, infatti. E ok, vabbè, dai. Dopo il PMR c'è qualcuno, comunque saluti anche a loro, lo saluti. Cosa avremo da te lì? Sì, io adesso mi accendo la benzina, aspetto che arrivi mia moglie, perché è andata a fare una commissione qua. Tanto se è qua vicino sarà arrivato. Vabbè dai, sentiamo alle prossime, giù. Se devi andare, con tutto, grazie per la chiacchierata, alle prossime. Ok, dai, ricambiato tutto, dai. E anch'io adesso accendo la televisione. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Pazienza, se no, che lo vuol dire? Abbiamo un Carosello, non esiste più Carosello. Ciao Natalì, grazie a te, ciao, alle prossime. E fruscia.